intorno a me. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzir, la notte mi fa impazzir, mi fa impazzir. E la tua voce fende il buio, dove cercarti non lo so. Ti vedo e torna la speranza. Ti voglio tanto bene ancora. Per un istante riappari, mi chiami e mi tendi le mani. Ma il mio sangue si fa ghiaccio quando ridendo ti allontani. La notte mi fa impazzir, mi fa impazzir. Il giorno splende in piena pace e la tua immagine compare. Felice tu ritrovi l'altro, quell'altro che mi fa impazzir. La notte mi fa ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dicono che non so trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. Ma il mio ragazzo sa che non è vero. Il mio ragazzo sa che dall'amore che nasce la vita, e la mia vita io la do all'amore. A chi mi dice vivi un altro giorno, io gli rispondo che tutto il bene a chi è innamorato di me. una lacrima sul viso, ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il mento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Tu, bella e triste tu, mi dicesti quando abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io non farei l'amore qui alla stazione, ma non restare lì a buttar via i minuti, il mondo tu lo sai e degli innamorati. Nascondi tu, se c'è un altro dillo pure qui, non si può.

bellezza che più non hai. Se seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio fra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Avevo la ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì. Piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà. E si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La la la la la. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato

seccare.